Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Vorrei continuare a raccontarvi storie di personaggi che durante l'ultima guerra mondiale hanno salvato il nostro patrimonio artistico. Uno di questi si chiamava Gianalberto Dell'Acqua, che fu un giovane funzionario di Brera, poi fece una grande carriera, divenne il direttore, lavorò alla Biennale di Venezia, divenne professore all'Università Cattolica. Ma in quegli anni, giovanissimo, si trovò veramente a affrontare dei pericoli enormi. Tra l'altro si trovò solo perché la sua collega Fernanda Vixen era stata arrestata e dovette fare il doppio gioco sostanzialmente, cioè funzionario della Repubblica di Salò, perché quel periodo era Repubblica di Salò, cercò come poté di salvare le opere d'arte dal progetto che avevano i tedeschi, cioè di portare tutto verso il Brennero e portare naturalmente tutto quanto in Germania. Quindi cercò di ritardare e soprattutto di allontanare in rifugi alpini più vicini alla Svizzera possibili, perché quella era una garanzia, alcune delle opere d'arte. Naturalmente i viaggi che lui racconta nelle sue memorie sono a dir poco rocamboleschi. Per esempio, portava delle opere d'arte lungo la sponda del lago e a un certo punto nella città di Roma si ruppe il semiasse del camion e una grande pala rinascimentale rischiò di finire piombando, di finire nel lago, nelle acque del lago. E così ricorderà che passando sopra un tunnel ferroviario, una grande pala di Bramantino, purtroppo più alta del tunnel, ebbe un colpo tremendo nel passaggio. Quindi furono anche dei viaggi fatti con veramente affidandosi un po' alla fortuna, ma che alla fine portarono intatto il patrimonio artistico alla fine della guerra. Ricorda Dell'Acqua in queste sue belle memorie i pericoli anche personali corsi. Per esempio aveva la famiglia sfollata nella villa Cavallini a Lesa sul Lago Maggiore, dove c'erano i figli e in particolare una bambina. Lì passavano in continuazione da un lato i tedeschi e poi lì ci fu la Repubblica dell'Ossola, anche i partigiani. Quindi è un periodo molto confluso e molto difficile per chi abitava in quelle zone. E questa bambina era stata educata dai genitori a non dire mai niente. Quando si presentò un tedesco in casa, lei disse: io non dico niente a questo tedesco. E così raccontava anche del doppio passaporto che teneva nelle scarpe, perché ai posti di blocco vari esibiva questi passaporti. Ecco, sembra incredibile che un funzionario di Brera, un uomo dedicato alle opere d'arte, alla difesa delle opere d'arte, abbia dovuto patire questi pericoli per nascondere, per tutelare, per proteggere il nostro grande patrimonio artistico.